Di Giovanni Minoli, il faccia a faccia. Stefania Brancaccio, padre napoletano, madre americana, 5 fratelli, 3 figli, 1 marito. Laurea in filosofia perché dice la filosofia ti dà una marcia in più. Ma nel suo caso di marcia in più ne ha più d'una. Donna del fare, lady di ferro, imprenditrice del tempo, ho dato alle mie dipendenti il tempo che serviva a me, ha detto. Vicepresidente della Coelho, l'azienda metalmeccanica di Acerra. Manager e imprenditrice, ma anche cavaliere del lavoro e membro della consulta femminile del Pontificio Consiglio della Cultura, ma primo di tutto donna. Ecco, dottoressa Brancaccio, senta che cosa ha detto Bertolaso a una donna. No, la Meloni deve fare la mamma, mi pare che sia la cosa più bella che le possa capitare. Beh, ad una donna nella vita. È definitivo questo. Beh, la Meloni deve fare la mamma. Però, deve gestire questa pagina della sua vita, che è una delle pagine per una donna, credo che sia la più bella in assoluto. Non vedo perché qualcuno deve costringerla a fare una campagna elettorale che comunque sarà feroce. E poi nel momento in cui deve incominciare ad allattare, incominciare anche a occuparsi delle bughe, della sporcizia, del traffico, dei topi, è della microcriminalità, di tutto il resto. Dottoressa Brancaccio, Bertolaso ha ragione o torto? Ma non so dire ragione o torto, sta di fatto che la Meloni è libera di fare quello che vuole, però il quadro che Bertolaso ha mostrato della politica, beh, mi sembra durissimo anche per l'uomo. E quindi la politica che deve rivedere i tempi e le modalità di fare politica. Ecco, lei ha detto vorrei essere donna senza dover avere il coraggio, ma il coraggio di cosa? Chiedono a noi donne sempre questo coraggio di vita, questo coraggio di affrontare lavori maschili, il coraggio di andare avanti. Ci vuole coraggio per avere donna oggi? Purtroppo sì, a me piacerebbe essere una semplicemente normale. E la Meloni si accetta, che ha accettato e si è candidata, ha avuto coraggio o no? Purtroppo ha dovuto avere coraggio, ma io le auguro di fare tutto contemporaneamente, perché una donna è in grado di farlo. Lei però non sopporta, l'ha scritto, quelle donne in carriera che si appiattiscono sugli uomini al punto da accedere al partner, funzioni che li fa diventare mammi in grembiule. Insomma, non donne che diventano uomini, uomini che diventano donne. È così? Così è. Io ho sempre sottolineato il distinguo. Noi siamo donne, dobbiamo essere donne. E gli uomini sono uomini e devono fare gli uomini. Ma come siamo arrivati a questo? Perché siamo arrivati a questo? Perché insistere sulle pari opportunità quando non si è capito, le si è preso come un luogo comune. Avremo raggiunto davvero la pari opportunità quando avremo sottolineato la profonda differenza fra maschio e donna. Fra maschio e donna. Dottoressa Brancaccio, se il Novecento è stato il secolo della conquista della libertà delle donne, comunque innegabile, questo secolo, secondo lei, per le donne, che secolo è? Questo secolo che stiamo vivendo in questo momento è dell'affermazione dei nostri diritti, perché prima ci hanno relegato con leggi che ci preservavano, dovevamo stare a casa per salvare una famiglia, e poi ci hanno dato una libertà immensa di affrontare un lavoro completamente maschile senza però venirci in aiuto e senza di nuovo aiutarci ad essere donna. Ecco, ma lei per aiutarsi a essere donna dice la sera bisogna saper tornare a casa, essere in grado di preparare una cena, cioè lei lo fa regolarmente? Io lo faccio regolarmente, qui mi ricordo quanto la Balbo, Laura Balbo, che è stata una delle prime a parlare di questa doppia presenza. Inizialmente noi la dicevamo nel 78, pensi un poco, il doppio lavoro delle donne, e ci sembrava veramente sfruttante, avvilente. Poi invece abbiamo coniato il termine, dico abbiamo perché ho partecipato a questa coniare questo termine, della doppia presenza. Una donna è capace di essere presente contemporaneamente, e perché appartiene proprio alla donna, in famiglia, vicino ai propri figli, all'assistenza, a stare insieme col marito. Senta, quindi per lei la parità non è un obiettivo? La parità è il riconoscimento della dignità sia dell'uomo che della donna. Non c'è parità se io mi appiattisco sull'uomo. E quindi quelle che lei chiama le donne mascolinizzate, quanto danneggiano le altre donne? Sono un modello sbagliato. Un modello sbagliato. Ma quando... in cosa soprattutto? E soprattutto quando sono felici di avere raggiunto riconoscimenti maschili, sbandierandoli dicendo: io sono la prima donna che ha fatto questo, io sono la donna cavaliere del lavoro, io sono una donna. Non è, ma è il mio vanto. Lei è una donna cavaliere del lavoro. Sì. Ma a me piacerebbe che questa onorificenza fosse data a tantissime, tante donne che le meritano. Senta, ma quindi il vero nemico delle donne qual è? Il tempo che non c'è? Sì, il vero nemico delle donne è il tempo. Ma lei nella sua azienda è riuscita a gestirlo, questo problema, ha dato alle sue dipendenti, l'ha detto lei, il tempo che serviva anche a lei. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che siccome l'azienda era mia ed ero di proprietà, io gestivo il mio tempo, quindi io ero padrona del tempo. E quando ho capito che alle ragazze, alle mie collaboratrici, mancava proprio la possibilità, veda, che ha fatto? Per ridarle il tempo, cosa ha fatto? Lei immagini che qual è la definizione di schiavo? Schiavo è quell'uomo che non è padrone del proprio tempo. E quindi quando si lavora senza essere padroni del proprio tempo, senza decidere, cioè di avere la possibilità... Cioè nella sua azienda tutti sono padroni del loro tempo, meraviglioso. Nella mia azienda ho dato la possibilità di gestirci il proprio tempo, fatto salvo la somministrazione normale, regolare, non siamo una onlus, io devo fare profitto. All'interno della nostra azienda, ma non perché vengano da me a chiedere un permesso. Ho capito. Devono fra di loro avere la possibilità e quindi imparare un agire donativo, imparare un noi in azienda. Il collega che cede la possibilità o dà la possibilità alla collega di entrare un'ora dopo. Un'ora dopo, un'ora prima, in modo da poter portare aiutarsi a scambi l'un l'altro. E questo conviene economicamente? Certo. Insomma, il suo obiettivo è lavorare meno e lavorare meglio o lavorare giusto? Com'è? Dovesse fare uno slogan. Lavorare con equità, perché lei deve pensare che non conviene o non conviene, e fuori dubbio che una persona che si vede avvilita, che non ha del tempo, ricorre ai noi, e qua sono le leggi, ai famosi 3 giorni di malattia, costosissimi per un'azienda. Cioè meglio aiutarsi che andare in malattia, certo. Quello dice. E sugli uomini queste regole che effetto fanno? Ma guardi, all'inizio, ed è proprio stata la politica della nostra azienda, perché all'inizio non è la dirigenza che deve essere convinto, devi arrivare giù fino alla base. Devono capirlo. E no, è il momento educativo dell'azienda. Senta, ma ho letto che a proposito di educazione e di diritti, che lei è molto critica con lo statuto dei lavoratori. Perché è critica? Perché quando io ho cominciato a lavorare, questo statuto dei lavoratori era scritto completamente al maschile. Cioè? E non prevedeva assolutamente questi, se non, ripeto, con leggi che hanno poi vietato l'assunzione delle donne, perché dando tanti privilegi poi tu bloccavi l'assunzione, cioè, di una donna. Cioè è tutto privilegiatissimo, allora non ti assumo, questo sì, era il concetto. Questo poi alla era fine. Il concetto prima, sì. Quindi queste tutele dello statuto dei lavoratori, lei dice che alla fine hanno rovinato le donne. Certo, purtroppo le hanno rese una categoria a parte. E cosa serve invece delle tutele? Non una società accogliente, una società che fosse amica delle donne, una società che fosse amica della famiglia e che al di là delle leggi, leggine e cose, comprendesse realmente. Però, al di là del mondo ideale, molti imprenditori vedono soprattutto i rischi connessi all'eccessiva flessibilità negli orari del lavoro femminile. Lei cosa risponde? Assolutamente no, non c'è nessun rischio, assolutamente si sbagliano profondamente. Ma in azienda voi avete adottato un manifesto per l'uguaglianza, la valorizzazione della differenza di genere. Che vuol dire? E noi la differenza è soprattutto una risorsa dell'azienda, capire la differenza, ma non solo delle donne. Guardi che all'interno del mio stabilimento noi abbiamo giovani che entrano, abbiamo lavoratori extracomunitari, cioè dei differenti, è una comunità. È una ricchezza. È una ricchezza. Senta, prima di lei, durante la prima guerra mondiale, insomma gli anni 20, un'altra donna imprenditrice italiana aveva organizzato la sua azienda secondo tempi e necessità delle donne. Si chiamava Luisa Spagnoli, senta qui. Fino ad oggi le donne sono state escluse dal lavoro. Dobbiamo compiere una piccola rivoluzione. Io lo so che cosa vuol dire essere madre, moglie e dover lavorare. E proprio perché lo so, ho deciso che noi ci organizzeremo diversamente da come si è sempre fatto. D'ora in poi, chi ha figli piccoli potrà affidarle a una sorvegliante che li farà giocare qui in fabbrica. Per i neonati invece ci sarà una stanza dove potranno dormire tutti insieme. E quando sarà il momento della poppata, le mamme verranno avvertite subito per telefono. e potranno lasciare immediatamente il posto di lavoro. Ma soprattutto, il tempo che dedicherete all'allattamento vi verrà retribuito. Beh, è una storia che conosceva, quella di Luisa Spagnoli? Sì, l'ho visto anch'io per televisione. È un modello, un meraviglioso. Sì, è un modello meraviglioso, come vede. Anni 20. Perché è questa logica di gestire le aziende. E, fra noi, persone un po' più anziane, avevamo i testi di economia che ci dicevano la gestione del buon padre di famiglia. Luisa Spagnoli l'ha fatto secondo la buona madre di famiglia, senza leggi e il buon senso. Arrivandoci, buon senso. Senta, la Coelmo produce gruppi elettrogeni. Ma c'è un lato femminile del vostro lavoro, no? Ma non esiste un lato femminile e maschile di un lavoro, no. No, vabbè, però lei dice che i vostri, cioè i gruppi elettrogeni, sono dei prodotti sartoriali. Beh, mi spiega come si fa a considerare artigianato un gruppo elettrogeno, perché non lo vedo. Beh, immagini che un aeroplano è un prodotto sartoriale. Ogni parte dell'aeroplano viene misurata pezzo per pezzo, non può essere costruito in serie. Senta, a proposito di donne incinte che accettano lavori importanti appena prima di partorire, senta cosa ha detto Marianna Madia a Massimo Giletti all'Arena. Ho sempre pensato che quell'immagine di me che giuro al Quirinale con questo pancione non dovesse mai diventare il simbolo del fatto che la maternità non ha bisogno di tempi e di tempo. Però poi ho pensato di farlo proprio perché vorrei che quell'immagine restasse come l'immagine di un governo che invece ha l'ossessione della condizione femminile. È d'accordo con la Madia? Assolutamente sì, ma soprattutto di un governo, di una società che non è che ha l'ossessione del lavoro femminile, ma che rifiuta e che per quanto ne manifesti o sbandieri, non è vero che è a favore della famiglia né delle donne. Ecco, ma mi dica una cosa, però lei ha la sensazione che questo governo, come dice la Madia, abbia l'ossessione della condizione femminile? Appunto, sembra che ce l'abbia, no? Dico, ma chiacchiere solamente a parole, perché poi non di fatti non si... Cioè le scelte che si fanno vanno nella direzione giusta oppure no? Ma fino adesso non ne abbiamo visti questi grandi vantaggi. A lei, a lei Renzi piace? È molto giovane. È molto giovane. Lei ha detto che non sopporta chi riduce a uno slogan le pari opportunità, lo diceva anche prima, che sono invece un percorso lungo e faticoso. Ma il suo qual è stato? Appunto. Perché è faticoso? Cos'è stato faticoso nel suo percorso? Prima di tutto farsi accettare, perché lo sa chi come me ha lavorato in ambienti metalmeccanici, una donna è sempre stato molto difficile farsi accettare per capacità e quindi la dimostrazione, dover dimostrare. Ma voi lavorate ad Acerra, la sede della vostra azienda, insomma in mezzo alla terra dei fuochi, problemi con la camorra? No, noi dobbiamo finire, cioè basta definire quella terra che invece ha veramente delle immense eccellenze ed è brutto che venga soltanto segnalata per episodi orribili che stiamo comunque già superando. Superando? Certo. Ma la Coelmo nasce nel 1946, è arrivata oramai alla terza generazione. Lei ha tre figli, i suoi figli lavorano in azienda? Sì, lavorano tutti e tre in azienda. Ma è facile o difficile far lavorare i figli in azienda? E non è né facile né difficile, li ho assunti con un curriculum che era adatto al posto che vanno a ricoprire. Perché cosa fanno? E loro sono laureati in economia, sono laureati in ingegneria, quindi figure adatte al lavoro. Ma la successione, dicevamo la terza generazione, nelle aziende familiari la successione sono un problema oppure no? Naturalmente è un problema quando si pensa di dover dare il testimone come se fosse uno scettro o una corona. Invece... Nel lavoro, il lavoro e il mercato è l'unico a cui dobbiamo rispondere, il mercato non è... Però in una famiglia ci sono anche intrecci emotivi, sentimentali che incidono su queste cose. Infatti le famiglie, le aziende familiari nella successione spesso hanno problemi. Lei pensa... In prospettiva di poterli avere? No, quello che a me il passaggio già è avvenuto. Quelle che hanno avuto dei problemi è perché hanno pensato di dare in mano a gente incapace l'azienda. L'azienda è una famiglia, ma di per sé è una famiglia. Ma voi l'avete già fatto, nel senso che sono già loro. Certo. Abbiamo già fatto tutti i passaggi necessari. Lei ha cinque fratelli, l'abbiamo detto, un padre napoletano, una madre americana, molto cattolica, di principi calvinisti. Ecco, la sua religiosità influenza molto il suo modo di essere capo? Io vivo pienamente il mio essere cattolica e religiosa, però immagino che la ricerca della spiritualità in azienda, questa parte spirituale dell'azienda, non bisogna necessariamente essere cattolici o non cattolici. È un'esigenza dell'efficienza? Certo, è dello spirito proprio di ognuno di noi. Senta, lei è, l'abbiamo detto, donna manager impegnata anche nel Pontificio Consiglio della Cultura del Cardinale Ravasi. Ma è più facile confrontarsi con gli uomini sul lavoro o con gli uomini di chiesa? Gli uomini di chiesa sono uomini comunque. Quindi è difficile sempre. È sempre difficile. Non ci sono caratteristiche specifiche. No, assolutamente. Senta, dottoressa Brancaccio, lei è laureata in filosofia e dice che la filosofia le ha dato una marcia in più. Quale? Quell'attimo, la filosofia è amica della scienza e momento pensante, quindi probabilmente ho sempre, ancora prima di attuare qualcosa di tecnico, di scientifico, ho pensato. Cioè aiuta a pensare, gli altri pensano meno. Non lo so. E la sua napoletanità le ha dato una marcia in più? Tanto è molto simpatica, quindi già una cosa. Non ne ho idea, speriamo, forse quel nostro tiramma a campana, domani è un altro giorno. Tipo di filosofia. Questa filosofia aiuta, la positività. E invece positività. La marcia in meno? È di che quando ti presenti e dici dove sono le tue aziende, e tu dici nel sud ad Acerra, vedi qualcuno che storce un po' il naso. Ah sì, saltano delle commesse? No, assolutamente no. Storcono il naso perché, secondo lei? Perché appunto la presentazione di questo sud molto difficile, da cui è difficile tirar fuori eccellenze. Ma è difficile veramente tirar fuori eccellenze? Cioè il sud aiuta l'eccellenza a emergere oppure no? È più gravoso. Molto gravoso. Ma cosa gravoso. C'è di gravoso in più? Una burocrazia che normalmente opprime l'Italia tutta, ma che forse qui è ancora un po' più rimarcante. Ancora più forte? È ancora un po' più forte. È lì che nasce lo spazio per la camorra? Certo. Ma in genere è tutto il paese. Quando un paese non ha leggi chiare, semplici da interpretare, dà adito ad infiltrazioni di qualcheduno che ti dice non ti preoccupare, il problema lo risolvo io. E lo risolve. Certo. E quindi con uno scorciatoie. La scorciatoia. E impara, soprattutto insegna anche a noi ad agire in un ambito grigio e di cui non ci accorgiamo neanche di aver fatto reato. Senta, ma perché Napoli, che è una delle città più creative e più colte d'Italia, è ridotta così male? Ma Napoli è stato sempre uno dei grandi regni di cultura. Lei immagina, la Napoli del Settecento era capitale, era una capitale di cultura. E poi invece, purtroppo, io a questo punto... Perché? E perché? Perché si è persa proprio quella cultura, si è data un po' in mano ai lazzaroni. Ma i lazzaroni napoletani? Intelligenti ma ribelli, questo è. Noi siamo molto intelligenti ma molto ribelli. E quindi? E quindi forse se rimarcassimo, cioè capire che l'obbedienza, che l'attenzione alle regole, il rispettare non è sinonimo di stupidità, di stupidità ancora peggio, cioè di meno furberia, questo alzare la furberia di intelligenza, questo è terrificante. Lei ha detto: noi napoletani non siamo riusciti a concepire una città che appartenga ai cittadini. Perché? Perché abbiamo sempre considerato, ma questo dobbiamo andare a pescarlo nella storia, il mio passato, il mio passato filosofico ci riporta al momento in cui la res pubblica, o la dominazione che noi abbiamo avuto di stranieri sul nostro territorio, ci hanno fatto sempre considerare l'interno di casa nostra nostro e l'esterno, la strada, la Serao, Matilde Serao parlava purtroppo di catini di acqua sporca rovesciati sulla strada che non ci apparteneva. Perché questo non abbiamo mai pensato alla cosa pubblica come nostra. Senta, cosa direbbe lei a un giovane, un ventenne, per convincerlo in questo contesto a sperare ancora nel sud, in Napoli in particolare, e non cercare di andarsene? Cosa gli direbbe? Io direi soprattutto di parlargli molto chiaro. Ai giovani bisogna parlare chiaro, parlare di doveri ancor prima di diritti. e di dire guardate che il lavoro c'è, il lavoro però è pesante, il lavoro, si presentano da noi ragazzi pieni di speranza, con purtroppo lauree date così con 110 mm-hmm. lode che poi non corrispondono effettivamente al loro bagaglio. E di dire loro, guardate che lavorando, è inutile che andate fuori a cercare fortuna, il lavoro all'interno delle nostre... Ma c'è il lavoro, non c'è il lavoro, vanno via anche perché non c'è il lavoro. No, c'è il lavoro e è un lavoro cambiato. Cioè? Noi abbiamo, assistiamo oggi alla quarta rivoluzione industriale, noi siamo quella industria che oggi viene definita 4.0, sì. È una nuova industria, è una nuova azienda, una nuova maniera di lavorare, sicuramente il mercato di lavoro non ci offre figure tali da poter inserire nelle nostre aziende, noi siamo ancora alla ricerca di persone e ci rendiamo conto che il nostro lavoro deficia proprio di queste figure tecniche che non produce. E quindi la scuola che deve formarli in qualche assolutamente, modo. Ecco. Assolutamente. Senta, oggi è il 17. Certo. Lei è napoletana ed è qua. Non è superstizioso? C'ho qua con mio cornetto. Ah, c'ho con... Se grazie. Potesse vederlo. Grazie. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Da allora, Mario? Che dici di questa intervista? Miracolo napoletano, il lavoro c'è ma non si vede. Il lavoro c'è ma non si vede. E tu Pietrangelo? Aveva ragione Aristofane. Quando? Quando fece le donne in Parlamento, le donne dappertutto. Va bene, aveva ragione Aristofane. E noi? In realtà lei, noi? A me invece mi ha impressionato un'azienda di successo nella Terra dei Fuochi. E questo è un segno di speranza che mi sembra abbastanza importante. Che ci fai sentire, Pietrangelo, oggi? Arriva. Quando noi per caso in un solo istante ci guardiamo indifferentemente e pensiamo in fondo a cosa siamo. Quando improvvisamente ritroviamo tutti quei momenti che dobbiamo ricordare per poterci amare, noi comprenderemo cosa vuole dire veramente starsene per ore nel silenzio stretti da morire e ci accorgeremo allora che il passato è stato quel che è stato, ma il domani cosa mai sarà. Allora Pietrangelo, e allora ogni velocità ha i suoi scatti di improvviso e con la lenta sorpresa di un fuoco pronto ad accendersi nello sguardo, e nella fretta di tutti oggi in metropolitana a Cornelia c'era la cerchia dei vecchietti chiacchieroni e il più baldanzoso tra loro coi free press sotto braccio era messo lì ad aspettare qualcuno, e infatti siccome il passato è quel che è stato, il domani chissà cosa mai sarà, è arrivata una signora, lui si è lanciato, metti una sera a cena, e questa nella versione bella nuova di oggi, e siccome ha chiamato Riccardo Garrone ha voluto questa canzone e l'ha voluta dedicare a Beatrice con un messaggio, tanto Dante Alighieri pensa solo ai caffè. Sistemato anche Dante Alighieri, che dici? Intanto Pietrangelo, linguaggio, personaggi sempre altissimi, troppo per noi. Io sto fermo a guardare. Senti, ma hai visto la Juve ieri sera? Io ho visto che il Bayern... Come hai reagito? Non l'hai visto? Ho visto che il Bayern per un'ora è stata una squadra succube della Juve, poi è successo qualcosa. È successo che non hanno dato un gol che non era in fuorigioco. Io di queste cose non andavamo 3-0 e avremmo vinto. Posso avere lumi? Sì. Ma in tutto questo comunque il Napoli vince, giusto? No, il Napoli non ha giocato, quindi non si sa ancora. È sempre sul ancora. Pezzo. No, è aggiornatissimo. Vabbè, Mario. L'importante è che vinca. Questa è stata veramente una partita dolorosa perché era vinta. Peccato. Allora Mario, la tua bolla? Andiamo. Mm. versione con i tamburi che si sentivano un po' di più. Comunque questo è Brasil, vai. E senza percussioni, pazzesco. Ma perché? Che ne so. Ma chi è? È roba di donne, ha deciso la Guerrera stamattina. La Guerrera ormai ancora un ha preso il potere nella musica. Ancora un pizzico per i nostri ascoltatori. La nostra vera DJ è lei. Sì, sì, sì, sì. È roba da mandolino, però sì. Sì. Niente, vabbè, niente, dai, vabbè, vai, dai, vai, siamo in Brasile. Una tragedia, ragazzi, quella di Lula, pezzo, quella di Lula è una tragedia. Anche una lei. Tragedia. È una tragedia per la Rousseff, la presidente, ed è una tragedia per il Brasile. Dal punto di vista giornalistico. Momento in cui arrivano le Olimpiadi, no, mondiali. Ma è una cosa incredibile. Allora, quello che è successo oggi è che hanno pubblicato l'intercettazione legale e pubblicazione a quanto pare legale pure quella, perché è autorizzata dal magistrato in quanto di interesse pubblico, così dicono, ma naturalmente qua si può aprire un dibattito enorme su questo, e dove insomma si evince, come dicono i colti, che tra la presidente in carica e l'ex presidente c'era, no, un inciuccio per portarlo al governo ed evitargli l'arresto. Ora, ci sono disordini in Brasile, nella capitale economica, a San Paolo sta succedendo un po' di tutto, hanno sparato col gas, la polizia. Al di là di questi elementi, diciamo, che fanno parte del folklore politico, la ciccia però è che noi parliamo di un paese già in seria difficoltà economica, con adesso una, chiamiamola, complicazione di tipo politico molto grande, cioè, una, ma grande queste intercettazioni sono legali? Sono legali. Qua si apre un grande capitolo, perché secondo me c'è una battaglia in corso di potere, ovviamente. Beh, certamente. Tra un pezzo della magistratura, un pezzo della politica e il governo in carica. È una cosa che non conosciamo noi. Novità, una really? Novità assoluta. Una novità assoluta. In Italia la battaglia politica è stata fatta su questo negli ultimi vent'anni, purtroppo. Salamino! Tutto finisce dove tutto comincia. Tutto iniziò a Roma. Roma rivendica l'impero, l'ora dell'aquila sonò. Roma rivendica l'impero, l'ora dell'aquila sonò, va da sé, divide et impera, non funziona. A forza di dividere è andata in rovina l'emporio, altro che impero. E così a Roma, dove tutto iniziò, iniziò quando? In un centro commerciale di Bologna, Casalecchio sul Reno, Silvio Berlusconi disse alle elezioni di Roma: scelgo Gianfranco Fini, scelgo Fini contro il candidato della sinistra. Appena ieri si è consumato tutto. Berlusconi ha cancellato tutto. Berlusconi è diventato antifascista. Disastro delle amministrative, dimenticando la dichiarazione a sostegno della fiamma tricolore, era il 23 novembre del 1993, Berlusconi, sostenuto in questo da Francesca Pascale, la sua fidanzata che sui social, insomma, lo incoraggia, ecco, ha scoperto la resistenza. Dice: sono fascisti quelli che stanno con Matteo Salvini. Niente di meno, signori miei. Il fascismo, a parte il fatto che Berlusconi dovrebbe ricordare quanta sfiga gli portò la retorica antifascista. Ricordate, Giovanni, Mario, ricordate, nel 2009, all'apice del suo successo, appunto, in visita a Onna, tra i terremotati d'Abruzzo. Era il padrone d'Italia, aveva tutto, aveva gli applausi, aveva la festa, insomma, indossò il fazzolettone dei partigiani. E forse Marte, forse Giunone o Giove in persona, comunque non gliela perdonarono. Non gliela perdonarono. Dall'indomani si scatenarono le intercettazioni, lo scandalo di Noemi, la Daddario, i Bunga Bunga, le cene eleganti, la tavernetta, il bitterino. Insomma, fu tutta una calata. La sfortuna che gli portò la retorica antifascista non se la potrà più dimenticare, però c'è ricaduto. E però la patria grata con Primo Arcovazzi, Il federale, camerata tra i camerati, non può che dedicargli, recitata da Ugo Tognazzi, chi? Di Arcangelo Bardacci. Chi, sfidando la mitraglia, nel fragore della battaglia, all'assalto ci conduce? È il mio duce. Chi, tra labari e bandiere, guida le camicie nere al trionfo del partito? È Benito. Chi, sprezzando Francia Albione, col germanico e il nippone, marcia verso alti destini? Mussolini. Oh, comunque Tognazzi. Tognazzi. Federale, figlio di Luciano Salce. Buca sì. Con acqua. Buca con sasso. Buca con fango. Era meraviglia. Formidabile. Vai con la bolla, Mario. Vai. I thought I had it all together, but I was led astray. Sentite la differenza. Oh, questa è una canzone del mattino. Vedi come suona, senti? Senti l'armonia. Si è ripresa la guerrera? No, me la sono ripresa io, ah, guarda là. Ah, lei ride perché l'hai fatto tu. Guarda, senti. Bella, è frizzante, mette allegria, cominci bene la giornata. Vabbè, te la canti, te la suoni, dimmi un po' com'è questa storia. Comunque siamo in Breakbot, Baby I'm Yours Fit. E dunque, io sono concentrato sul vertice da due giorni, europea, Consiglio dei Capi di Stato a Bruxelles, straordinario anche questo, come dici sempre tu, quanti ne hanno fatto ormai? Abbiamo perso il conto, però ci sono dei segnali, nel senso che Italia-Germania si può fare. Che cosa? Si può fare un buon accordo sull'immigrazione derivante appunto da questo asse che c'è, per ora, se regge fino ad oggi e domani, tra Berlino e Roma. Renzi è diciamo uno dei protagonisti, certamente. Stamattina ho letto un pezzo del Financial Times che dà conto della sua diciamo linea sempre più critica nei confronti dell'Europa, e però nello stesso tempo mette anche in evidenza che in fondo il Presidente del Consiglio segue un po' un clima che c'è nel Paese, perché il numero degli scettici secondo l'Eurobarometro in Italia è aumentato fortemente, e secondo solo quello degli inglesi. Questo vuol dire tante cose, ovviamente. Certo. Vuol dire anche però il rischio di inseguire diciamo una onda populista che in realtà è coperta anche da altri partiti. Certo. Naturalmente uno si deve coprire sempre a destra o a sinistra, questo si sa. Ci sono dunque dei segnali buoni, cioè l'interesse per Renzi e per l'Italia in ogni caso come fenomeno e laboratorio politico. Altri cattivi, perché ogni volta che tu leggi queste analisi fatte da altri si capisce che loro non capiscono il piano italiano. Sempre riusciamo a capirlo anche noi. Beh, devo dire, è molto difficile in questo momento capire che cosa frulla nella testa. Ci sono molte oscillazioni strategiche, sì, dei governanti. Quindi aspettiamo. Il vero punto di tutta la discussione, lo sapete, chi ascolta Mix 24 con fedeltà sa che noi affrontiamo questo argomento, è sempre la Turchia. Certo. Batte cassa, costa molto, 3 miliardi e fischia. E non è sicura nel risultato. Quindi vediamo che succede. Mille speranze, mille vite, mille sogni, mille destini, quando si incontrano fanno scintille, fuori dei riflettori si muove. Stretto dentro al cuore, che la politica sia ancora un'occasione. Immaginate una gigantesca mela nella piazza della stazione centrale di Milano. Succederà il prossimo 21 marzo, quando l'opera di Michelangelo Pistoletto sarà esposta come simbolo di unione tra il mondo artificiale e il mondo naturale, in chiusura del Rebirth Forum, organizzato da Città dell'Arte Fondazione Pistoletto con il sostegno della rete di Italia che cambia. Paolo Naldini, direttore di Città dell'Arte Fondazione Pistoletto, al forum ci saranno oltre 100 partecipanti, dall'istituzione all'arte, al design, all'università, passando per le associazioni e i movimenti ambientalisti, per discutere di sostenibilità. Ecco, dottor Naldini, ma come si svolgerà concretamente l'incontro? Essenzialmente si passerà da momenti di plenaria a tavoli di lavoro. Questo fondamentalmente per assicurare di ascoltare la voce di tutti i protagonisti che sono stati invitati proprio perché sono già attivi nel territorio del Milanese, area metropolitana, con i loro cantieri, con i loro progetti. Dopo Expo, in termini di sostenibilità, è cambiata Milano? Sicuramente il mondo si aspettava e si aspetta che da Milano venga un cambiamento. La carta di Milano per noi di Città dell'Arte rappresenta un patrimonio fondamentale che però ci deve impegnare in un lavoro quotidiano, continuo e condiviso. Senta, uno degli obiettivi comunque è quello di avviare a Milano, l'ha appena detto, un cantiere vero e proprio cantiere di innovazione. Ma qual è il tema più urgente da affrontare? Pensiamo che sia proprio l'organizzazione della società civile. Occorre quindi ricostituire tessuto, ricostituire meccanismi e sistemi, valorizzando quelli che già esistono e che funzionano, ma soprattutto innovando e inventando di nuovi. Lo stesso funzionamento del forum, come dicevo prima nella sua domanda, con metodo discorsivo in piccoli gruppi che poi diventano plenarie, che poi si riarticolano in piccoli gruppi composti da altri in modi diversi, costituisce l'adozione di sistemi pratici di democrazia diretta. Quindi l'idea di una democrazia pratica per noi è essenziale, la chiamiamo demopraxia. Ah, quindi la demopraxia, questo deve essere anche, immagino, l'obiettivo più ambizioso che vi ponete. Esattamente, è un obiettivo che risulta una declinazione più contemporanea del grande ideale democratico che l'umanità persegue da millenni e sul quale ci siamo incamminati. Infatti noi chiederemo a tutti i partecipanti di depositare delle azioni. Mi fa un esempio concreto di un'azione? Un'azione può essere una insegnante che lavora con i suoi allievi ad un laboratorio che lavora per esempio sulla impronta ecologica del nostro modo di vivere e di consumare, oppure può essere un'istituzione come Lega Ambiente o altre delle importanti istituzioni con cui stiamo lavorando che lancia una campagna nazionale per la riduzione dei consumi. Senta, il forum si concluderà, come abbiamo detto all'inizio, con l'esposizione alla stazione di Milano dell'opera di Michelangelo Pistoletto, La mela reintegrata. Ma quanto resterà esposta quest'opera? La collocazione è permanente, quindi rappresenta un'acquisizione alla città di Milano in un punto così strategico come la stazione che la raccorda con i flussi globali in maniera permanente. Ed è giustamente, come lei ricordava, la mela reintegrata, nel senso che il morso che abbiamo tutti conosciuto, rappresentato, che l'uomo ha inflitto alla natura, viene ricostituito, ricucito in realtà, attraverso l'uso consapevole, responsabile e dunque sostenibile della tecnologia. Mix 24. Pronto? Pronto, l'avvocato? Sì, buongiorno. Buongiorno. Gli avvocati a lei non ci hanno detto niente. Di andare a New York? No. Non gliel'hanno detto? No. Sono dei figli di puttana. E io ho l'impressione che debbo cominciare di loro. Loro dicono che debbo cominciare da lei, io invece comincio da loro, queste massa di buffone e cornute. Ma andare a New York a far cosa? Ci vuole la sua persona, dato che lei è curatore fallimentare. Sì. Dell'avvocato, avvocato come cazzo si chiama? Sentore. Sono spiegato. È assolutamente assurdo che prenda, vada in America a far cosa. Ma si incontra con lui. Una telefonata minatoria, non l'unica, del mafioso Giacomo Vitale all'avvocato Giorgio Ambrosoli. Si incontri con lui, intima il mafioso, lui e Michele Sindona, il finanziere condannato all'ergastolo il 18 marzo del 1986 come mandante dell'omicidio di Giorgio Ambrosoli. La morte dell'avvocato commissario liquidatore della banca privata italiana è uno dei capitoli più inquietanti dell'intreccio perverso di mafia, politica e finanza. Giorgio Ambrosoli, un uomo schivo che mette coraggio e onestà al servizio dello Stato e della legge. I documenti, le rivelazioni, le omertà. Qui a Mix 24, il giallo della storia dopo il giornale radio. Mario, c'è ancora una bolla? Sì, sentiamo dei consigli per investire. Pensa alla grande, sii ottimista, non dare mai segni di debolezza, mira sempre dritto alla gola, compra poco e vendi a molto. La paura è un problema che non ti riguarda. La paura è un problema che non ti riguarda, ma forse sì. E possiamo dire una cosa, che tra le due banche centrali, che insieme a quella del Giappone in realtà è anche la Bank of England, ma insomma, tra la Fed e la BCE, e ha vinto Draghi, perché la Federal Reserve ieri ha corretto l'outlook, cioè le previsioni sull'economia a ribasso nel prossimo biennio 2016-2017. E questo ci può stare. Ma l'altra cosa è che i famosi 4 rialzi dei tassi non ci saranno, ce ne saranno 2, forse, vediamo. Quindi la mossa del rialzo fatta a dicembre in realtà non ha funzionato. Mentre Draghi per ora... si può criticare anche alcune cose che ha fatto eccetera, però sono state efficaci, tant'è che le borse stamattina sono ancora positive nonostante, vediamo poi se girano, perché qua non è mai, però diciamo c'è un clima di fiducia nelle mosse di Draghi. E, vedendo le cose che si del dibattito dell'economia, bisogna stare attenti a che cosa succede soprattutto ancora nei paesi emergenti. Ecco perché prima ho citato il caos politico del Brasile, certo. Perché un paese, un paese il Brasile grande che va come giù, il Brasile incide tantissimo, incide. Naturalmente. Adesso con il professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. British Medical Journal, dicembre 2015. La felicità influenza la mortalità? Questo studio, fatto su oltre 700.000 donne inglesi, è lo studio del milione di donne, soprannominato lo UK Million Women Study, vedere cosa succedeva a queste donne a seconda della loro livello di felicità. L'idea è quella che la felicità diminuisce la mortalità, mentre invece l'infelicità l'aumenta. E allora sono andati a vedere nel tempo cosa succedeva a queste donne con un'età media di 59 anni e che riferivano di essere 39% felici il più delle volte, usualmente felici nel 44% dei casi e nel 17% infelici. Naturalmente sono state seguite per 10 anni e in questi 10 anni il 4% delle donne sono morte. Si sono stati fatti tutta una serie di calcoli statistici complicati per evitare che ci fossero dei fattori di confondimento che determinassero la mortalità. E quindi si è stato tutto corretto per come le donne riferivano la loro salute, se erano ipertese, diabetiche, asmatiche, depresse, ansiose, il dato sociodemografico, gli stili di vita, e pulendo tutto si è visto che la felicità o l'infelicità non influisce sulla mortalità. Quello che influisce è la salute. Se c'hai una salute buona, campi di più. Se c'hai una salute cattiva, campi di meno. Top. E Gloria Guerrera, per chiudere, cosa ci propone? Oggi una canzone per chi cerca scampo, tormentato da un amor borghese. I Corvi, Un ragazzo di strada. Io sono un poco di buono, lasciamo in pace perché... Hai tutto quello che vuoi, conosco. solo quel che vale una ragazza come te. Sono un poco di buono.